Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di lavoro e in particolare di trovare lavoro. Questo è il titolo del libro di Giovanni Pedone Lauriel che è qui con noi questa sera. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Trovare lavoro, si è parlato molto di lavoro negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, di politiche del lavoro, di grandi temi sul lavoro, ma questa sera ne parliamo in maniera diversa, ne parliamo in maniera in fondo personale. Ogni persona di fronte all'esigenza di trovare o di cambiare lavoro è una esigenza che tutti prima o poi abbiamo, qualcuno può avere più volte nella vita, anzi nella società moderna sempre di più il lavoro non è un lavoro a vita. Trovare lavoro è scritto da Giovanni Pedone Lauriel per Guerini e Associati. Giovanni Pedone è uno dei dirigenti di LHDPM, la più grande organizzazione globale specializzata nello sviluppo dei talenti e nella loro connessione con il mercato del lavoro. Ecco, ti spieghi meglio, Giovanni Pedone, cos'è questa impresa, questa azienda? Allora, l'Experison DBM, LHHDBM, come ha detto giustamente lei, è la più grande organizzazione al mondo nei programmi di sviluppo dei talenti e della loro connessione col mercato, ovvero nei programmi di transizione di carriera. L'assunto è che sempre più oggi occorre riuscire ad avere gli strumenti opportuni per, oltre che crescere professionalmente, anche poter gestire e governare i vari passaggi di carriera. Come tra l'altro indicato nel libro, è ormai piuttosto evidente quanto si sia modificato il rapporto tra la vita media lavorativa delle persone e la vita media delle aziende. Quando 20 anni fa si iniziava a lavorare, l'aspettativa che tutti noi avevamo di vita lavorativa era sicuramente inferiore a quelle che all'epoca erano invece le durate e le vite delle maggiori aziende che all'epoca erano sul mercato. Sviluppo tecnologico, globalizzazione dei mercati hanno fatto sì che oggi comunque noi abbiamo davanti una vita lavorativa di gran lunga maggiore a quella che è la vita delle aziende. Ecco che quindi non sono più le aziende che cambiano le persone nel loro ciclo di vita, sono le persone che devono cambiare più aziende. Questo è un lavoro che tutti noi siamo consapevolmente, ahimè più volte spesso inconsapevolmente chiamati a fare, e l'HHDBM si propone di supportare e le aziende e soprattutto le persone nell'affrontare questi passaggi. Da questa esperienza di questa società nasce allora l'idea di fare questo libro che è un po' un manuale per le persone che cercano lavoro, i giovani che cercano lavoro, ma anche per coloro, forse soprattutto per coloro che già con una certa esperienza vogliono cambiare lavoro o si trovano, come lei diceva, costretti a cambiare lavoro. Ecco, questo libro comincia citando Leonardo da Vinci, citando il curriculum che Leonardo ha presentato a Lodovico il Moro. Come mai? Beh, ho trovato interessante citare la lettera che Leonardo da Vinci scrisse a Lodovico il Moro per tanti motivi. Un motivo è sicuramente quello che il marketing evidentemente non l'hanno inventato negli Stati Uniti, ma l'abbiamo forse anche quello inventato noi 500 anni fa, perché questa lettera, che è a tutti gli effetti un capolavoro, riassume in una sola pagina quello che Leonardo, all'epoca trentenne in cerca di occupazione, scrive a Lodovico il Moro proponendosi. È curioso vedere come in una pagina praticamente lui gli dice: in tempo di guerra sono tante le soluzioni innovative di armamenti che ti potrei offrire, così come nei rari momenti di pace potrei anche con la mia abilità di architetto costruire palazzi, spostare le acque per favorire l'irrigazione da qui in Avigli, ma soprattutto che ci sia la guerra, che ci sia la pace, con la mia arte di scultore sarò un cavallo di bronzo che darà immortalità alla tua casata. Quindi è un paghi uno e compri tre di 500 anni fa. Certo, possiamo dire che quando si scrive un curriculum bisogna pensare non solo a se stessi, ma soprattutto a chi il curriculum è indirizzato, cioè alle esigenze dell'impresa a cui va il curriculum, e cercare di offrire non solo una persona, ma di offrire anche delle soluzioni legate a questa persona. Quindi, in fondo, personalizzare il curriculum per ogni azienda, questo può essere il consiglio? Assolutamente sì, il curriculum non ha il dovere di essere esaustivo, non è la carta d'identità che uno fa e dopo 5-10 anni poi deve riaggiornare, e viceversa uno strumento di vendita di se stessi, di marketing, di presentazione, che va costantemente e continuamente tenuto aggiornato. Ripeto, non deve essere esaustivo, ma deve in qualche modo scegliere tra le cose che uno ha fatto o può fare, quelle che più possono in qualche modo combinarsi con le esigenze del potenziale datore di lavoro a cui ci stiamo proponendo. Ecco, di questi consigli di questo tipo è ricco ovviamente il libro, non abbiamo tempo di parlarne di tutti, però vorrei fare un accenno, soprattutto sulla base della sua esperienza, a quelle che possono sembrare le nuove strategie per cercare lavoro. E in pratica parliamo dei social network, Facebook, sì, o LinkedIn. Lei come vede questi strumenti nell'ottica appunto di chi deve cercare e trovare un nuovo lavoro? Ma li vedo estremamente efficaci, ovviamente come tutti gli strumenti devono essere gestiti con perizia tecnica da un lato, ma soprattutto con coerenza dall'altro. Nel libro faccio esplicito riferimento, no, al, c'è un capitolo, Dottor Facebook e Mr. LinkedIn, è sicuramente un luogo dove i direttori del personale piuttosto che i nostri interlocutori vanno a verificare chi siamo nel momento in cui ci proponiamo. Io conosco meno Facebook, conosco di più LinkedIn, ho visto che tante volte ci possono essere magari dei profili su LinkedIn impeccabili da un punto di vista professionale, è ovvio che se poi appari su Facebook con voglio dire in costumi da bagno o in pose, voglio dire, meno appropriate, questo potrebbe essere disdicevole. Per contro confermo che sono assolutamente strumenti oggi molto utilizzati sia nella ricerca e che danno quindi risultati di un lavoro, sia da parte delle organizzazioni nella ricerca di collaboratori. Però vanno appunto usati con giudizio, va pensato che diventiamo delle persone sempre più pubbliche anche attraverso questi strumenti. Ecco, c'è una frase che mi ha molto colpito in conclusione a questo libro, in cui lei dice: il momento migliore per cercare un lavoro è quando lo si è appena trovato. Sì, è una provocazione un po' paradossale che vuole in qualche modo riassumere alcuni elementi. Di sicuro, come lei diceva giustamente, il lavoro per la vita oggi è difficile trovarlo, anche perché le aziende stesse, io diffiderei dall'azienda che mi dice fra 3 anni dov'è. Non c'è dubbio che, io ho 20 anni che mi occupo di questo, nel momento in cui un candidato ha firmato un nuovo contratto di lavoro, ha una carica positiva, ha un'energia che anche in altri colloqui riesce a trasmettere, quindi risulta più efficace. Non c'è dubbio che nel momento in cui tu hai appena vinto la classifica dei cannonieri, quello è il momento in cui anche il tuo valore di mercato e di ingaggio è più elevato. E quindi il momento migliore di cercare lavoro è quando l'hai appena trovato, significa soprattutto che non ti devi fermare, che devi continuare sempre a cercare di migliorare la tua posizione lavorativa e professionale. Ecco, ma un'azienda in media come vede una persona che cambia troppo spesso lavoro, come una persona inquieta o come una persona che è capace anche di crescere professionalmente? Beh, anche qui con molto giudizio, è ovvio che è vero, spostamenti professionali troppo esasperati e troppo continuativi possono, al di là di che cosa può pensare un'azienda, anche non contribuire alla crescita professionale e quindi alla credibilità di un lavoratore. Per contro è vero che quel direttore del personale che 20 anni fa vedeva il curriculum di una persona che aveva cambiato 5-6 posti si insospettiva. Quello stesso direttore del personale, se oggi vede il curriculum di uno che è da 20 anni nella stessa azienda, si insospettisce, e quindi anche lì sono cambiati i codici. Ecco, mi ha già risposto alla domanda che volevo farle. In fondo, in questo ottobre del 2014, rispetto a un passato non tanto lontano, che cosa sta cambiando? Ma soprattutto direi, ci sono ancora aziende che si muovono, che assumono, che crescono, che vogliono trovare nuove competenze, che danno spazio alle professionalità? Assolutamente sì, ci sono, e è anche curioso vedere la difficoltà che hanno nel reperirle. Non è facile per le aziende trovare le persone giuste da ingaggiare e da assumere. Assolutamente confermo che esistono aziende che hanno piani di sviluppo, sono aziende che, devo dire, in Italia magari è un fenomeno che sta nascendo adesso, mentre in altri paesi come gli Stati Uniti è un fenomeno oramai già più consolidato. Tutti i paesi che hanno cominciato a mettere la testa fuori dalla recessione sono paesi in cui le aziende hanno puntato da un lato proprio sulla funzione della direzione del personale e delle risorse umane, e magari un po' meno su quella del finance, quindi guardiamo un po' di più la validità e le competenze delle persone, un po' meno il rigore della cassa. Questa è stata la chiave che ha permesso in alcuni paesi veramente di uscire dalla recessione. Io auspico che anche in Italia questo, diciamo, questa tendenza si affermi, perché non c'è dubbio che la cassa poi alla fine la fanno le persone, non il contrario. Quindi assolutamente c'è bisogno di persone capaci, competenti, e c'è bisogno anche, mi permetto di dire, che le aziende investano un po' di più proprio sul capitale umano, sulle risorse umane e sulla direzione del personale. Abbiano fiducia nei giovani, abbiano fiducia nella crescita, abbiano fiducia nelle prospettive di sviluppo, appunto, complessive di questa nostra società. Dobbiamo fermarci qui. Grazie a Giovanni Pedone Lauriel che ci ha parlato del suo libro Trovare Grazie lavoro. Grazie a voi. Trovare lavoro, come affrontare i passaggi di lavoro e scegliere il proprio futuro, un libro edito da Guerini e Associati, 160 pagine per 13,90 euro. Grazie, ringrazio anche Pietro Lacorte in regia e Franco Piantadini in redazione. L'appuntamento con Economia in Pagina è per sabato prossimo.